Non è sempre facile riuscire a comunicare in poche parole un concetto, perciò gli scritti dell'Apostolo Paolo sono belli, interessanti e utili non solo dal punto di vista morale e religioso, ma per la sua capacità di esprimere in poche parole anche verità difficili e profonde, come il poeta Dante è conosciuto per le sue qualità di poeta e per essere stato, in una certa misura, il padre di una lingua, quella italiana, ma anche per la sua perspicacia di proferire, in un solo verso, tutto un concetto che richiederebbe molte parole. E anche in questo modo che apprezzo l'ebreo Saulo, chiamato Paolo, il quale nel riassumere le modalità del giudizio di Dio usa solo due parole che, benché comuni, non vengono usate spesso nel predicare l'Evangelo: cercare l'immortalità. Queste due parole sono usate nella seguente proposizione: Dio renderà a ciascuno secondo le sue opere. Vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità. Ma ira e indignazione a quelli che per spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità, ubbidiscono all'ingiustizia. RM 2.68. Che Dio renderà ciascuno secondo le sue opere è una verità presente in tutta la parola di Dio, ma sembra essere dimenticata volontariamente. 2 P 3.5. Per poter rimanere sereni, ciascuno nella propria ignoranza. L'assurdo è che quando è ricordata, in genere viene ribadita dai religiosi per sostenere che l'uomo è salvato mediante le opere meritorie che compie, mentre si trova scritto in modo lapidario, perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui. Infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato. IRM 3.20. Paolo, in merito a chi otterrà la vita eterna perché avrà cercato l'immortalità, intende tutta un'altra cosa, che io stesso, meno assieme ad altri milioni di persone, meno ho messo e metto in pratica tuttora. E qui occorre dare uno sguardo indietro. Ripenso a quando ero ragazzo ed avevo nel mio cuore, meno per la grazia di Dio, un'infinita e insaziabile necessità di ricercare Dio e la verità. Mi piaceva la vita e amavo vivere la mia esistenza così come mi si presentava. È anche vero che ero giovane, ma questo non è sinonimo di guardare il presente e il futuro in modo positivo. Tanto è vero che molti giovani di oggi e di ieri trovano la vita tanto insulsa e vuota, al punto da arrivare a volte all'estremo gesto del suicidio. Mi è sempre piaciuto godere la vita, assaporare tutto ciò che mi offriva. Ero sempre allegro e creavo allegria tra i miei coetanei. È vero che con gli sbalzi di umore, tipici dell'età, avevo momenti di riflessione molto intensi, ma solo ora comprendo il perché. Con il passare del tempo mi sono reso conto di cercare disperatamente qualcosa che appagasse quel bisogno di eterno e di infinito insito in me, e per questo tutto ciò di materiale che ricevevo dalla vita, così come ogni espressione religiosa, non mi soddisfaceva. Mangiavo, bevevo, ridevo, andavo a ballare, passeggiavo godendomi ogni tipo di paesaggio, leggevo, ma ogni cosa era un vero palliativo temporaneo. Appena terminata la soddisfazione avevo bisogno nuovamente di ogni cosa. E così, di nuovo, mangiavo, bevevo, ridevo, andavo a ballare, passeggiavo godendomi ogni tipo di paesaggio e leggevo. Cercavo qualcos'altro, cercavo qualcosa di duraturo, qualcosa di eterno. Cercavo appunto l'immortalità. Allora non ero cosciente, ma il Dio che conosce il cuore degli uomini e i loro pensieri prima che sorgano ne era al corrente. Il mio desiderio di ottenere gloria, onore e immortalità era palesato anche con una vita religiosa abbastanza corretta, con una perseveranza nel fare il bene per quanto io fossi come un cieco che camminava nel buio, e Dio conosceva quanto profondamente anelassi ad agire giustamente. Con il passare del tempo questo mi ha aiutato a comprendere le infinite e incomprensibili vie di Dio in occasioni come quando, per esempio, tronca delle vite che per noi sono immature, anche se nessuno di noi ha il diritto di giudicare il cuore di nessuno. Non dobbiamo dimenticare che Gesù Cristo, il Figlio Immacolato di Dio, è morto a 33 anni. Una vita però di giovani che disprezzano ogni autorità, che sono arroganti, presuntuosi, esperti in malizia, non sono indicazioni di cuori che cercano l'immortalità. Così la mia gioia di godere la vita e la profonda insoddisfazione erano i giusti e leciti opposti perché Dio operasse nella mia vita. Perciò, come ho udito il messaggio eterno e insaziabile del Vangelo, ho posto una totale e cieca fiducia in Cristo. Non tanto per guadagnarmi l'immortalità, ma per ottenerla, dopo che mi era stata offerta e senza nessun merito da parte mia. Il dono dell'immortalità è talmente grande che non è possibile in alcun modo comprarla o guadagnarla. Sarebbe come voler comprare la città di Roma con un centesimo o guadagnarla con un saluto mattiniero. Ciò che è immortale si può ottenere solo con qualcosa di immortale e, per questo, solo l'opera del sacrificio di Cristo, un'opera immortale, compiuta da Gesù stesso, che è immortale, può riscattare l'uomo dalla perdizione eterna. Dato per scontato la nostra miseria umana e l'offerta così elevata, Dio ha stabilito di offrire l'immortalità per grazia, cioè senza opere, mediante un solo atto di fede. Una immortalità che si poteva ottenere solo mediante un altro mezzo immortale, la fede. Una volta trovata l'immortalità, una volta entrato in essa, GV 5.24, il desiderio dell'immortalità in me non si è assopito, ma continua ad avere la stessa intensità. Esperienza questa purtroppo non comune a tutti quelli che hanno ottenuto l'immortalità. Perché? Come ha spiegato Gesù con la parabola del seminatore, il seme della parola piantato in noi con il compito di far crescere in noi il volere e l'operare, viene soffocato dagli impegni della vita, un vortice che sembra assorbire ogni nostro desiderio di Dio, e le tribolazioni o persecuzioni a motivo di Cristo mettono a dura prova ciò che veramente amiamo. Una volta ottenuta l'immortalità, molti credenti rimangono soddisfatti di ciò che hanno ottenuto, perdendo di vista che esiste una vita piena di riconoscenza verso Cristo per il grande dono ricevuto. Qui sta proprio la bellezza della vita cristiana. Un'esistenza vissuta, non all'insegna del pesante ed estenuante dovere, ma vissuta all'insegna della più dolce e inesprimibile gioia di poter offrire il proprio corpo, come un sacrificio vivente, la gioia di poter dare qualcosa di tuo, e che nessuno può dare, come lo dai tu. Solo io posso dare la mia forza, la mia volontà, i miei beni, i miei affetti, i miei obiettivi, anche se dal punto di vista cristiano nulla mi appartiene e, se queste cose mi appartengono, è solo per distinguerle da ciò che posseggono gli altri. Proprio perché, per molti credenti avviene questa demotivazione nei confronti delle cose immortali, l'Apostolo Paolo, tenendo presente questo principio nel cercare l'immortalità, scrive ai credenti della città di Colosse: «Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto, alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra». CL 3.13. Che significato ha questo discorso? Come si cercano le cose di lassù? Si deve forse avere sempre la mente occupata dal pensiero di Dio? Sì e no. No, perché siamo ancora su questa terra e dobbiamo occuparci delle cose terrene. Sì, perché tutto ciò che si fa e si pensa ha come finalità l'immortalità. Qualsiasi cosa che faccia, tengo presente l'ordine di Dio, guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. 1 Tess 5.15. In questo modo non potrò nutrire nel mio cuore nessun pensiero per colpire il prossimo. Come quando parlo, tengo presente l'ordine di Dio. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona, che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. EF 4.29. Cercare l'immortalità significa che io non mi limito a esistere e a relazionarmi, cosa che del resto fanno anche gli animali e coloro che non nutrono nessun sentimento religioso, ma tutto sarà finalizzato a ottenere i premi che Dio ha preparato a coloro che lo amano. Premi al presente come la sapienza adatta per vivere una vita abbondante e vittoriosa, 1 Cor 26:9. Premi nel futuro perché sono riservate delle corone di gloria e onore a coloro che avranno servito fedelmente e umilmente. Se credo veramente che le cose immortali siano più importanti delle cose terrene, allora tutto ciò che è terreno avrà il secondo posto. Darò ad esso un valore relativo, non mi vivrò per accumulare ricchezze, non mi dedicherò anima e corpo ad attività che alla fine passeranno come una nuvola. Quando di tanto in tanto in televisione riportano dei servizi in relazione, che eredità duratura ha donato al mondo intero? Sono domande meno per chi le comprende, meno aventi il presupposto di tendere all'immortalità. Compiere, infatti, grandi cose per poi vederle finire mi dà la sensazione di passare tutto un pomeriggio al mare per costruire un bellissimo castello, per poi vederlo inghiottire dalle onde del mare. Io di questo non sono soddisfatto, la mia anima rimane arida, io cerco qualcosa di più. Molto di più. Cerco l'immortalità. Non mi accontento di parlare, voglio parlare di cose eterne. Non mi accontento di scrivere, voglio scrivere dei valori eterni. Non mi accontento di fare, voglio compiere opere eterne. E così il mio obiettivo è condurre anime a Cristo, è scrivere pensieri che valgono per l'eternità. Voglio parlare di Dio perché Lui è infinito. Tutta la mia vita, tutto il mio essere è teso verso l'immortalità. È volto verso tutto ciò che va oltre la tomba. Ho del continuo gli occhi fissi su nel cielo. Sia quando cammino, quando mangio, quando guido, quando vango la terra del mio orto. Quando dico di sì e quando dico di no. Fino ad oggi ho tenuto presente con timore e tremore l'immortalità, un pensiero costante, il quale mi ha impedito di soddisfare le richieste della mia natura malvagia. E, se prima della mia resa a Cristo l'immortalità era la motivazione di fondo per trovare Dio in Cristo, ora è la stessa pulsione che mi induce e mi costringe a vivere per Cristo. Quando si ama l'immortalità, si diventa sempre più simile ad essa. Marzo 2011. Ellero,